Allora, io la amo molto perché l'ho conosciuta in Messico, nel senso che sono andata appunto nelle sue case azul dove lei viveva e ho capito, insomma, c'è molta energia in Messico, soprattutto intorno anche alla sua figura e quindi reputavo che fosse una bella esperienza anche per il pubblico italiano poterla vivere. Quindi ne ho parlato in azienda, al mio presidente Roberto Indiano, e abbiamo deciso di portarla alla fine non solo in Italia ma anche all'estero, quindi ora apriremo anche delle mostre su Frida. Ad esempio in Spagna. È un personaggio che è estremamente vitale, ha un'enorme forza di vita e credo che possa essere un esempio, soprattutto in un periodo in cui noi arriviamo dopo una pandemia a lamentarci un po' di tutto, possa essere veramente esempio da seguire per non arrendersi mai. È molto interessante, Frida Kahlo ha un'energia potente e ha impatto su tutti, soprattutto anche sulle donne, cioè ispira moltissimo, è sempre stata all'avanguardia anche nella sua epoca, quindi non ci può che spronare a fare del nostro meglio e a portare in alto il suo nome, non solo come donna, ma anche come artista, come poetessa, che lei è a un fuoco e ha travolto tutti, ecco. Certo. Che impatto pensi che potrà avere questa mostra qui a Bologna, che è una città culturale? E la sua Allora, relazione con il Messico. Bologna l'abbiamo appositamente scelta anche un po' come casa, non solo per questa mostra, ma anche per altre mostre. Saremo proprio qui fissi a Palazzo Belloni per un po' di tempo. E Bologna, secondo me, è composta, è una città molto viva a livello femminile. Quindi siamo sicuri che le visitatrici l'apprezzeranno molto, siamo più che sicuri. E tra l'altro, quello che dicevo prima in conferenza stampa, che la mostra, essendo fotografica e avendo anche ricostruzione degli ambienti, dei bonili, un po' dell'aria che Frida respirava, sicuramente sono un'immersione a 360 gradi per iniziare a conoscerla. Quindi suggerisco anche a chi non conoscesse il personaggio Frida Kahlo di venire in mostra di modo da avere una prima infarinatura, un primo abbraccio dell'artista e a quel punto poi emozionarsi e magari iniziare a leggere di lei, andare a vedere i musei con le sue opere in Messico, insomma, iniziare il percorso di passione e di conoscenza di Frida Kahlo. Lei pensa che Next Exhibition si potrebbe occupare anche di portare le mostre di Frida Kahlo anche qua in Italia, oppure vi baserete principalmente a portare le mostre fotografiche? Allora, la difficoltà oggettiva di portare fuori dal Messico le opere intese come pittura di Frida è una questione molto molto burocratica, nel senso intorno al nome di Frida Kahlo, essendo molto potente, essendoci anche un business a tutti gli effetti dietro, ci sono grossi problemi a livello di diritti, soprattutto sulle sue tele. Ci stiamo provando, ci stiamo lavorando ormai da anni. Il sogno sarebbe almeno di avere una, due opere commiste alle fotografie. Non ci arrendiamo, ma in questo momento storico, ancora di più dopo il Covid, è particolarmente complicato il discorso. Ma ci proviamo, sarebbe un grosso gol, vedremo. Stiamo non solo con gli enti pubblici, ma stiamo lavorando anche e collaborando anche con dei collezionisti privati, però permane la difficoltà di poter far spostare le opere tra paesi. Vi consiglio comunque di venire e vi consiglio quello che ho fatto anche insieme alla curatrice, vi consiglio di guardare, prendetevi un'ora e mezza, 2 ore abbondanti di tempo e guardate le diverse sfumature, perché sono centinaia di sfumature degli occhi di Frida. Guardate le fotografie, guardate negli occhi Frida.